Oh, siamo venuti arrivati. No, no, no. Sì, che vuoi? No, non è lungo. Andiamo, Oh, yeah.

かってる。

Thank you. Thank you.